tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, poiché quella di stasera Parma contro Cipro è soltanto una formalità, mi sembra il caso di tornare a proiettarci sul campionato, visto che sabato riparte davvero in grande stile. Ore 18 a Torino, Juventus-Fiorentina, ore 20:45 a Marassi, Genoa-Inter. Tornando a parlare di campionato, Adalberto Bortolotti e io siamo in debito con alcuni di voi sul conto di alcune squadre di cui per ragioni di tempo non siamo riusciti a darvi conto nel precedente appuntamento. Rimediamo oggi, Adalberto? Ma sì, siamo qua pronti. Oltretutto sì. È un programma molto stimolante quello di ripresa del campionato. Difatti, anche perché io credo che sia stato davvero, dato che sappiamo che non c'è più nulla di casuale, no, nella scelta degli anticipi e dei posticipi, che si tratta di soddisfare nel miglior dei modi una clientela ben precisa, beh, insomma, dopo una sosta che non poteva essere granché galvanizzante, visto che non c'erano match clou nei mercoledì e nel sabato internazionale, ripartita Juve, Fiorentina e Genoa Inter non è un brutto colpo, Sì, perché nel frattempo si è confermato quel duello che tutti avevamo pronosticato sin dall'inizio, ma nelle due squadre guida, diciamo così, si è incrinato qualcosa a livello di infortuni o di dinamiche interne. Non so, nell'Inter questi casi Maicon e Vieira che possono dare fastidio, nella Juventus infortuni importanti, a parte l'incognita Buffon che vuole arrivare appunto allo scontro di vertice, ma insomma ha questo problema del menisco, mentre anche a centrocampo la perdita di Marchisio nel momento in cui stava rientrando Sissoko è sicuramente significativa. Penso che potrebbe essere per quello che si è visto nel centrocampo della Juve fino adesso, una perdita pesante. No. Sì, perché Marchisio dava quantità e qualità insieme, quindi poi manca anche Thiago che magari qualche scampolo lo poteva fare a recente livello, quindi certo. Sicuramente è una perdita. Anche se dovesse perfezionarsi subito e a buon livello il rientro di Sissoko, sarebbe un recupero altrettanto importante. Su questo non c'è dubbio. È vero anche che sul conto delle due genovesi, della Juventus e dell'Inter, insomma, così un ritratto, una messa a punto rispetto al rendimento della fase iniziale della stagione l'avevamo fatto. Io oggi partirei invece di queste che giocano domani dalla Fiorentina, perché non era partita così bene, ma strada facendo mi pare abbia trovato una linearità di percorso che forse autorizza qualche speranziella in più per la tifoseria. Guarda, io sulla Fiorentina devo fare autocritiche, perché all'inizio l'ho giudicata inferiore allo scorso anno, ritenendo così, magari banalmente, ma sembrava una cosa scontata, che il cambio fra Felipe Melo e Zanetti fosse in perdita sul piano tecnico, non tanto quanto è stato in vantaggio sul piano finanziario, ma comunque perché Corvino decisamente è un mago, perché i casi Jovetic e Felipe Melo stesso lo confermano, insomma. Certo. Invece nella Juventus Felipe Melo, dopo un buonissimo inizio, mi pare stia facendo registrare qualche battuta vuota, anche qualche distrazione fatale sul sì. piano del risultato, ecco. E nel contempo Zanetti è ritrovata una continuità di gioco, nel senso che riesce a giocare due o tre partite in fila, cosa che nella sua carriera non sempre è successo. È ritornato quel bel giocatore che si era visto anni addietro nella Roma di Capello, ma dopo anche nella Juventus stessa, e forse adesso offre un rendimento più alto di quello che è il suo dirimpettaio di questa sfida qui, appunto Felipe Melo. A parte questo, la Fiorentina, come dicevi tu, non ha avuto un avvio fulminante. Io l'ho vista dal vivo nella partita inaugurale a Bologna, dove ha raccolto un pareggio grazie all'unica sin qui prodessa di Mutu. Però non aveva sicuramente convinto, a tratti era anche stata sotto nel gioco. Poi facendo devo dire che con un solo incidente di percorso, mi pare a Roma, dove ha ceduto abbastanza di schianto, sì, lì sì. Nel resto ha tenuto un alto rendimento, come dimostra poi la classifica. Segno questo che la di Prandelli è sempre di estrema affidabilità. Grazie. Che possa essere un avversario importante, sì. Un avversario difficile, sì. Tra l'altro, mi veniva in mente, mentre tu elencavi le virtù, le qualità, certamente Zanetti finché dura, no? Perché sappiamo di questa sua fragilità cronica, e quindi augurandogli invece finalmente una stagione al completo, a me viene in mente che spesso e volentieri la differenza per la Juventus e l'Inter l'hanno fatta Buffon e Julio Cesar. Ecco, se c'è una squadra che ha un portiere all'altezza di queste due è proprio la Fiorentina. Perché... sul piano del... vorrei dire, del miracolo puro, forse addirittura superiore Frey. La continuità nella stagione sicuramente premia Buffon e Julio Cesar, anche se Frey poi di passaggi a vuoto non è che ne faccia molti. No. Però sul piano della prodezza che ti resta negli occhi, Frey fa delle cose assolutamente incredibili, anche in campo internazionale. Resta un mistero che la Francia non gli affidi stabilmente, non è solo un mistero della Francia, peraltro, quindi che non gli affidi stabilmente la porta della nazionale. Per me è un portiere eccezionale, sicuramente alla base di questa crescita della Fiorentina. Ecco. Completamente d'accordo. Hai parlato, en passant, di quella grande partita che giocò la Roma proprio contro la Fiorentina, in cui non era facile mettere insieme, insomma, capire fino a dove arrivavano i meriti dell'una e i demeriti dell'altra. Quanto ha funzionato, a parer tuo, sino ad oggi la cura Ranieri? Io dico, dal mio punto di vista, che il bello di Spalletti, della miglior Roma di Spalletti, non c'è più. Però è anche vero che un po' alla volta un po' di realismo in più forse sta subentrando. Mi pare che di poter aderire in toto alla tua diagnosi. Con Spalletti la Roma era brillante. Nei momenti di vena credo al top del gioco espresso in Italia, sicuramente. Però con Ranieri io credo affronti meglio una fase difficile. Sì. Cioè è un allenatore che è maestro, secondo me, nel limitare i danni quando le cose girano storto. Mentre Spalletti, come raccoglieva il massimo nel momenti felici, così magari era un po' più vulnerabile quando non aveva tutta la squadra nella migliore condizione. Quindi in questo momento per me il passaggio di consegne ha sicuramente funzionato, perché ha consentito alla Roma una risalita graduale, senza lampi, però con una buona continuità di punti raccolti. Ecco. Certo. In tre parole hai fatto un ritratto ineccepibile sia di Ranieri che di Spalletti, per le loro caratteristiche, per le loro risorse e anche per i loro limiti. Se parliamo di Lazio invece, spostandoci di poco rispetto alla Roma, cioè, ma restando nella stessa città, se parliamo di Lazio, c'era chi si aspettava di più e c'era chi invece, come me, tenendo conto anche delle epurazioni di Lotito, si aspettava persino di meno. Non dimenticherei quella Supercoppa messa in bacheca, che insomma per una società come la Lazio non è una cosa da tutti i giorni, e direi che Ballardini insomma se la sta cavando sposando una linea societaria che secondo me gli costa dal punto di vista dell'organico. Non c'è dubbio, io direi che per la Lazio come andamento stagionale possiamo fare il discorso inverso alla Fiorentina, cioè è partita nella stagione, considerando appunto anche la Supercoppa, con un piglio assolutamente autoritario che faceva magari... destava aspettative maggiori di quanto ci siano state, e poi è andata un pochino all'indietro, secondo me logicamente, considerato che il suo organico, avendo perso almeno due pezzi da 90 determinanti in reparti assolutamente centrali come il centrocampo Ledesma e l'attacco Pandev, ha regalato molto alla competenza tenendo ai box due giocatori di questo tipo. Mi ha in un certo senso, qui magari rifacciamo lievemente il discorso di Ranieri, mi ha favorevolmente sorpreso questo realismo di Ballardini, che io dal quale io ero rimasto incantato per il gioco espresso, ma avevo appunto questo dubbio che anche egli potesse sfruttare bene, ma non sapesse gestire granché l'emergenza. Invece vedo che tira fuori degli 0-0 come quelli ultimo di Firenze, magari fortunato perché sì, c'era un gol non visto, certo, però con un'umiltà tattica che completa il suo repertorio, ecco, e che ha consentito alla Lazio di rimanere comunque in linea di goleggiamento. Io parto sempre dal presupposto che il doppio impegno, anche quello internazionale, per società di livello non vertice sia molto pesante, quindi il pedaggio che paga, il prezzo che paga è sicuramente alto. Tenere la Lazio in una posizione media di classifica, nonostante gli impegni, fra l'altro di questa Coppa che richiede impegni molto continuativi, è un merito, e credo che la Lazio sia destinata a fare il campionato, in fondo il campionato che si aspettava e che sarebbe stato sicuramente più ambizioso con tutti gli effettivi a disposizione. Ecco, quella che invece, e arriviamo direi a clou di questo appuntamento di oggi, quella sul cui conto è difficile dire, a parer mio perlomeno, a questo punto che campionato farà il Milan, perché Se guardi per bene l'organico, se pensi ai nomi, se pensi all'esperienza, se vedi certe fasi di gioco tuttora, beh, allora ridimensionare l'ambizione del Milan mi sembra quasi una crudeltà mentale. Se però la stessa gente la valuti dal punto di vista dell'anagrafe, in qualche caso della pancia piena, forse anche dell'avvilimento, no, di qualcuno, di doversi trovare in situazioni del genere, beh, allora adesso non dico quello che i tifosi più accaniti paventano come caso estremo, però è un Milan che potrebbe anche dover soffrire, insomma. Ma vedi, ecco, io prima ho detto che sulla Fiorentina facevo autocritica, sul Milan no, perché onestamente non mi aspettavo molto. Io credo che il Milan sia stato costruito abbastanza male, che abbia sottovalutato la perdita di un giocatore come Kakà, che abbia puntato troppo su Ronaldinho quando tutto fa ritenere che sì, qualche lampo lo offrirà, per carità, la classe non si cancella, però l'affidabilità è quasi a zero, insomma. Certo. E poi l'acquisto, secondo me, più, tant'è vero che già si parla di taglio, comunque di ripensamento, quello di Huntelaar, giocatore che io quando l'ho visto giocare non mi ha mai impressionato granché, e che comunque entrava in concorrenza in un reparto che secondo me era l'ultimo che necessitava di un innesto, perché quando sarà pronto Borriello, visto che Inzaghi il suo lo dà sempre, magari qualcosa di più, insomma, non c'era tanto bisogno di un altro centravanti. Devo dire che rilevo con grande piacere, anche in una eventuale prospettiva azzurra, il buon rientro di Nesta. Questo è anzitutto una notizia consolante per un giocatore che sarebbe stato crudele perdere del tutto ancora in età veramente praticabile, insomma, per un calcio d'alto livello. E poi perché sicuramente la coppia con Thiago Silva ha ridato al Milan una cerniera centrale tutto sommato affidabile. Certo. Però continuiamo, finora è andato benissimo il portiere, ma sulla lunga distanza credo che resti un po' un'incognita, anche se sin qui Storari ha fatto il suo. Davanti fra Ronaldo, mi manca la costruzione del gioco, mentre fra l'altro Pirlo con questi avanzamenti sia in azzurro che mi convince molto meno che come regista, ma è una soluzione forzata. E poi c'è il declino, prima per infortunio, poi probabilmente anche per una certa usura, di Gattuso, che abituato a dare un grandissimo apporto a questa squadra. È un po' la cartina. Io non ho grandi speranze, no. Ecco. Cioè, lo ritengo in grado di fare grandi partite, di battere chiunque nella partita singola, ma nell'arco della stagione non mi dà grande affidamento, ecco. Per un traguardo alto. No, certo. Per un traguardo da Milan o a quello che ci ha abituato in questi ultimi. È una squadra che nei primi cinque finirà, non c'è da pensare a pericoli, ecco. Anche perché mi pare che quest'anno la concorrenza subito al di sotto non sia poi così impressionante. Insomma, certe squadre come Palermo, come Roma sin qui, eccetera, Palermo magari viene da una grande partita, però sin qui aveva raccolto poco. Sì, a loro volta sembrano squadre più da serata o da grande giornata. Esatto, che non da, non, per un piazzamento nelle zone altissime non credo siano un pericolo, ecco. Però è chiaro che io parlavo di 5 posti, se il Milan arrivasse quinto credo che tutti sarebbero molto delusi in società. Sì, certo. Uso un termine eufemistico. Eufemistico, perfettamente. Senti, tra una neopromossa come il Parma, che insomma, si installa nella parte sinistra della classifica e in maniera anche rassicurante sul piano del gioco, e un vecchio miracolo, come dire, come il Chievo, che è sullo stesso gradino, quale delle due ti fa più, non dico impressione, perché il Chievo un po' ci abituati e il Parma è una squadra di tradizione, però mi pare che tutte e due stiano andando un po' oltre quello che si chiedeva loro fino ad ora. Tutte e due benissimo, se devo dire che mi fa più impressione, dico Parma proprio per quello che hai detto tu, cioè al Chievo abbiamo fatto l'abitudine, a Chievo di eccellente livello, e il finale di stagione scorso ci riannoda questo inizio, perché poi non la salvezza raggiunta, quando un po' tirato sul piede dall'acceleratore il Chievo aveva fatto un girone di ritorno fantastico. Mentre per il Parma è un ritorno, eravamo abituati ad averlo perso per un calcio di livello. Il Parma mi sembra la squadra ideale per Guidolin, molto vicino a quel suo Vicenza dei miracoli che vince una Coppa Italia, che finiva regolarmente nella prima metà della classifica, eccetera, perché è una squadra che ha corsa, ha fame, nel senso che ha giocatori bravi ma non ancora affermati e che comunque debbono raggiungere qualcosa, è stato costruito bene senza dispendio economico, perché ha giocatori che sono costati ma sono stati investimenti buoni. Dopodiché è chiaro che se metto sul piatto della bilancia quello che sono costate, devo dire che il Chievo ha fatto fin qui quasi lo stesso, spendendo molto meno. Ecco, quindi dovrei dare la palma al Chievo, ma li metterei in un brillante esequo proprio perché mi pare che entrambe stiano facendo il massimo loro consentito. Credo magari che il Parma abbia un organico che gli consente di protrarre questo momento un pochino più avanti. Ecco. Certo. Perché, anche se adesso ha una serie di infortuni pesanti, perché anche concomitanti nei ruoli, insomma. Ma io ho molto affidamento, così come non ritengo Guidolin un allenatore di vertice, da grandissima squadra, così lo ritengo forse il migliore nel gestire quella fascia di immediato... Sì, medio-medio-alto, se vogliamo. Sì, in quello è il migliore di tutti, perché ha un realismo notevole e credo doti di tenere la squadra su livelli di intensità sia agonistica che mentale molto alta. Adalberto, io avrei, dato che abbiamo un minutino scarso, riusciamo a così appunto in quel tempo a chiederci e a darci una risposta se un allenatore come Conte, che aveva dato l'anno scorso una grande impronta, su questo non c'è nessun dubbio a parere mio, al Bari, in quel, ma dal punto di vista prima ancora che dei risultati del gioco, tant'è vero che Ventura l'ha ereditato e poi magari anche perfezionato così brillantemente, è l'allenatore più giusto per subentrare e quindi prendere un lavoro già di un altro e avere 3 mesi in meno di cosa, oppure secondo te è talmente duttile, talmente ambizioso, questo lo si capisce, che ce la fa anche da questo punto di vista? Ma io credo che finora stia facendo bene, al di là di qualche risultato non del tutto pari al gioco espresso, eccetera. Però resto dell'idea che se io fossi un dirigente di società e decidessi di prendere Conte, ne avrei molta la tentazione perché lo ritengo molto bravo fra i giovani, certo. Lo prenderei prima di cominciare, sì. Perché mi sembra per il gioco espresso dal Bari, per quello che cerca di fare all'Atalanta, dando però 3 mesi di vantaggio ai concorrenti, che non è poco, No. Lui abbia bisogno appunto di un po' di tempo, perché non è un gioco banale, ecco, non è il gioco degli schemini, ma è un gioco che coinvolge tutti i giocatori e che ha bisogno di addestramento, secondo me. Io credo che lui dia il meglio, ci sono gli pronto soccorso in corso d'opera, no? E ci sono invece gli specialisti che che riescono a creare una squadra addestrandola sul campo. Certo. Fuori di campo Conte mi sembra molto bravo e quindi io lo metto nella seconda di queste categorie. Lo prenderei fin dall'inizio, col che gli auguro di fare benissimo l'Atalanta, perché mi sembra che abbia già un po' trasformato la squadra. Direi che i segnali ci sono. Adalberto, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento. Grazie innanzitutto. Grazie a te. E torneremo, dato che abbiamo trascurato un po' l'Italia, ma anche perché adesso l'Italia è un déjà vu, insomma, è qualcosa di. Credo che possa essere interessante un appuntamento a novembre, quando magari a in quelle amichevoli che si giocheranno verso metà novembre, cominceremo a capire se e che cosa Lippi ha intenzione di cambiare nel prossimo futuro. E a quel punto il tuo intervento credo che sarà il benvenuto. Grazie Alberto. Grazie Gigi, a risentirci. Torniamo in onda. Comincerei da una mail oggi che è firmata Diego Ravera e arriva dalla Spezia di qualche giorno fa. L'ho messa da parte per un giorno in cui ci fosse un pochino di tempo, perché è una lettura non brevissima ma di particolare interesse. Mi pare di notare, rispetto al calcio di altri paesi, scrive Diego Ravera, una differenza di approccio e di attitudine. In Inghilterra vanno allo stadio a vedere la propria squadra col piacere di tifare e di vedere una partita, a prescindere da vittorie, ambizioni, classifiche. In Italia si deve soltanto vincere, altrimenti si diserta e si contesta. Fa l'esempio questo ascoltatore di squadre blasonate tipo il Nottingham Forest, che negli anni 70 vinceva la Coppa Campioni, del Tottenham. Nottingham Forest che adesso è in seconda divisione, del Tottenham che galleggia verso la metà della classifica da anni. Cita il Liverpool che per tutti gli anni 90 non ha vinto nulla. E però dice, in Inghilterra si esulta, il tifo esulta anche quando la propria squadra segna il gol dell'1-4 a qualche minuto dalla fine. Da noi, anche squadre che in Serie C avevano seguiti numerici elevati, una volta raggiunte le categorie superiori, dopo pochi campionati nei bassi fondi, il pubblico abbandona perché pretende il salto di qualità. Addirittura una provinciale che retrocede in B e ritorna immediatamente in A lo fa con poco pubblico e poco entusiasmo, perché la risalita viene vista come un atto dovuto. Riflessioni che da un lato sembrerebbero persino banali, ma dall'altro sono estremamente originali, proprio perché nessuno questi ragionamenti li fa più, e se li fa vengono rubricati come, che ne so, qualunquismo, qualcosa di questo genere, mentre invece dovrebbero essere il sale, no? il punto di partenza di un sano modo di vivere, di un sano approccio al calcio in generale, al calcio in particolare, ma allo sport in generale. Qualche voce che arriva dal ritiro di Coverciano alla vigilia di Italia-Cipro in programma stasera a Parma. Se parliamo di calcio spettacolo, per esempio, sentiamo cosa risponde Lippi. Essere spettacolari fini a se stessi non conta niente. Noi andiamo a rivisitare le qualificazioni prima del mondiale precedente. Non è che avevamo giocato, avevamo fatto sì due o tre partite belle, le altre in linea con le solite partite di qualificazione, fino a poi fare il mondiale che abbiamo fatto. E fino adesso abbiamo ragione noi, abbiamo avuto ragione noi, abbondantemente. Il girone dell'Italia era facilissimo per Donadoni, scrive un ascoltatore, ma vinto da Lippi è stato esaltato dalla stampa quando la squadra più forte era l'Irlanda del Trapp e tutto il resto non contava. Beh, insomma, è vero, è abbastanza vero quello che questo ascoltatore scrive. È vero anche, ho l'impressione, quello che scrive Lori da Milano. A proposito del menisco di Buffon, Buffon, come sapete, ha annunciato che presto o tardi si dovrà operare, insomma, non, lui spera il più tardi possibile, ha dato la data di Inter-Juve che, se non sbaglio, è il 5 di dicembre, Juve-Inter tra l'altro la sera, dovrebbe essere un sabato sera il 5 dicembre, io credo che se arriva fin lì tanto vale che tenga duro altri 3-4 giorni per giocare anche la partita contro il Bayern di Coppa, il ritorno in casa che rischia di essere decisivo. Però scrive Lori da Milano, se uno è attento si vede già ora che Buffon non è più molto sicuro in certi movimenti, sembra bloccato psicologicamente. Io per ora non l'ho molto colto, però potrebbe essere soprattutto, io dico, non tanto nella parata quanto magari nel rilancio, quando è la gamba a essere chiamata principalmente in azione, a parte che poi la gamba deve spingere sul tuffo, sul volo, sull'uscita, però quando Buffon calcia in effetti sembra leggermente più più un imbarazzo di prima, insomma, e lo credo, perché, perché evidentemente questo, questo problema c'è. Nei giorni scorsi ha parlato Vicini, ha parlato ai nostri microfoni, tra l'altro, Azeglio Vicini, che ha fatto una serie di riflessioni da, da ex CT dell'Italia sulla qualificazione ottenuta e su qualche prospettiva azzurra. Beh, ci arriviamo abbastanza bene, abbiamo vinto il nostro girone anche con una gara d'anticipo, come era nelle previsioni, ma le previsioni sono un conto, poi le partite sono da giocare, e la squadra ha fatto buone partite, altre anche sofferte, però è sempre stata molto competitiva, perché Lippi sceglie sempre giocatori combattivi, con grande spirito di squadra, con grande spirito di coesione, quindi diciamo così, è una bella qualificazione, tenuto con merito, e anche questa partita qui ci siamo salvati nel finale, però hanno segnato anche loro nel finale, a testimonianza comunque sempre di una forte reazione della nostra squadra. Quindi credo che sia stato una diciamo che il girone di qualificazione è fatto bene, abbastanza bene o bene comunque, e da essere soddisfatti. Beh, insomma, ci sono nazionali, certo non campioni del mondo in carica come l'Italia adesso, ma insomma nazionali di primissima fila che avevano gironi più difficili, questo è oggettivamente vero, ma non se la sono cavata con questa brillantezza. È il caso della Francia, che comunque vada stasera è seconda e quindi dovrà affrontare gli spareggi. È il caso della Svezia, di Ibrahimovic, che quasi certamente resterà a casa e vedrà il mondiale in televisione. Sto scorrendo il resto del programma europeo. Beh, la Russia dovrà fare gli spareggi ed era una squadra che ha avuto la sfortuna di capitare nel girone della Germania. Il Portogallo stasera batterà Malta e quindi a sua volta si qualificherà agli spareggi, ma in ogni caso ha ceduto il primato nel girone e quindi la qualificazione diretta alla Danimarca. Certo, vedendo il programma completo di stasera e di stanotte, il clou, lo si diceva ieri con Fabio Tavelli, il clou è sudamericano, senza alcuna ombra di dubbio, perché all'una di stanotte, e credo sia, anzi è prevista la diretta su Sport Italia, si gioca a Montevideo, Uruguay, Argentina, che è la sfida decisiva sia per il quarto posto, che alle spalle di Brasile, Paraguay e Cile, che da diritto alla qualificazione immediata per il mondiale, sia per il quinto, che equivale in pratica a un pass per il Sudafrica, visto che obbliga ad uno spareggio con una qualificata, cioè, o meglio una prequalificata del girone nordamericano, centro e nordamericano, quindi insomma non certamente un ostacolo così alto. Però sia Uruguay che Argentina devono fare i conti con il terzo incomodo, che è l'Ecuador, che gioca sul campo del Cile. Il Cile è già qualificato e l'Ecuador potrebbe approfittare di un eventuale disimpegno dei rivali, lasciando a casa o l'Uruguay o l'Argentina. Se si trattasse dell'Uruguay sarebbe una grande sorpresa, se si trattasse dell'Argentina sarebbe per loro certamente un dramma nazionale. Sentirei a questo punto una voce che esce da questo discorso internazionale, che è quella del neopresidente, oltre che amministratore delegato della Juventus, Blanc. Vedremo l'assemblea generale di azionisti a fine mese e poi di là riparteremo dentro per un lavoro continuo di grande intensità, ma anche di grande responsabilità. E giocare senza Gigi è sempre una cosa difficile, quindi gestiamo questo ginocchio con lui da un po' di giorni, di settimane, e poi per prendere la decisione giusta con lui sul momento giusto per fare l'intervento. Sono convinto che Amaury farà gol nelle prossime partite, spero nella prossima. Poi sappiamo che è un tassello importante della nostra squadra, poi abbiamo anche David, anche Vincenzo Iaquinta, quindi è anche per questo, di avere un attacco così forte, quattro grandissimi giocatori, che uno non è al massimo, gli altri sono qua. Sì, la Juventus non viene certamente da una serie favorevole, no? Ricorderete la partenza 4 su 4 in campionato, con le prime 4 vittorie consecutive, e poi invece 2 soli punti sui 9 disponibili nelle 3 nelle tre successive, con il ricordo più recente è la netta sconfitta di Palermo. Quanto influisce sugli infortuni il calendario asfissiante tra campionato e coppe, domanda Massimo da Verbania, che prima aveva ringraziato il dottor Volpi per l'intervento dell'altro giorno su questo argomento, ma Massimo, è decisivo, non è che influisce, è decisivo, il dottor Volpi l'ha spiegato bene, l'abbiamo ripetuto un'infinità di volte, su questo sono d'accordo tutti, cioè gli allenatori, i preparatori atletici, i medici sociali, gli studiosi, gli statistici, assolutamente tutti. Il problema è che non sono d'accordo, come dire, i dirigenti e gli organizzatori, tant'è vero che quattro messaggi più giù Marco da Reggio Emilia scrive: campionato a 16 squadre, e cioè la vera panacea, vorrebbe dire 140 partite in meno di Serie A. Marco, il reggiano Marco ha fatto i conti, 140 partite in Serie A in meno da trasmettere, quindi per Sky, Mediaset e per quelli che comprano i diritti, chiude questo ascoltatore dicendo: credo non serva altro per capire che indietro non si tornerà più. Ho la netta sensazione che questo ascoltatore abbia ragione. Si potrebbe sperare magari in una via di mezzo, di fermarsi a metà, di fermarsi a 18, già vorrebbe dire guadagnare un mese con quattro partite in meno, consentire una sosta leggermente più lunga in inverno, partire un pochino più tardi e chissà, magari dare un po' più di preparazione estiva, che è quella che serve per mandare in forma seriamente i giocatori e ridurre le possibilità di infortunio, ma chissà poi con quante amichevoli in più farcirebbero quel pezzo, quello scampolo d'estate in più che resterebbe. Beh, ho sott'occhio un domandone brevissimo, firmato Fabio Maiorano, un ascoltatore che vi ha messo in difficoltà. Prendo un pochino tempo, anche perché a questo punto della trasmissione è prevista la rubrica di Nicola Filippone, che ci aiuta a ricostruire che cosa è successo nella storia dello sport quel determinato giorno che stiamo vivendo, il 14 di ottobre in questo caso. Sembra ieri. 14 ottobre 1984. Alla quinta giornata di campionato, il Verona di Bagnoli, che a fine stagione avrebbe conquistato lo scudetto, ottiene una vittoria che ne legittima le ambizioni di vertice. Al Bentegodi, la Juventus campione in carica subisce un netto 2-0. La gara si risolve nella ripresa. Al 62esimo sblocca il risultato un colpo di testa di Galderisi, che sfrutta un'uscita a vuoto di Tacconi su cross di Fanna. La seconda rete, a 9 minuti dal termine, porta la firma di Preben Larsen Elkjær, che conclude una fuga di 40 metri con un secco diagonale. La rete di Elkjær rimarrà nella storia anche perché durante l'azione il danese aveva perso una scarpa. È verissimo, quello ha ragione Filippone, un gol che fece epoca perché lo segnò parzialmente scalzo Elkjær dopo un dribbling di rientro, mi pare, su Favero. Non scommetterei che fosse davvero Favero l'esterno, anzi allora si poteva ancora dire terzino, non era ancora una bestemmia. Il terzino destro della Juve mi pare fosse Favero, mi pare su di lui che fece l'ultimo rientro prima di centrare l'angolino. Quello che è sicuro è che al limite dell'area aveva perso una scarpa e calciò in quelle condizioni. Il domandone di prima, firmato Fabio Maiorano, è: ho una domanda per lei. Messi crede sia destinato a superare Maradona? No, io credo di no, Fabio, e lo penso perché ho visto Messi giocare le ultime due o tre partite nell'Argentina, dove mi pare gli abbia fatto difetto in maniera abbastanza serio il temperamento. Cioè, premesso che Messi ha 21 anni, che quindi ha tutto il tempo di smentire questo sospetto, insomma, questa considerazione, e di arrivare chissà a che livelli. Però la sensazione attuale è questa, che inserito in un meccanismo perfetto come quello del Barcellona, Messi sia un giocatore straordinario che ti dà l'impressione di poter arrivare oltre chiunque, no? Anche i grandi della memoria, della leggenda. Tolto da quel contesto e messo in una squadra che attualmente sta giocando non male, peggio, Messi tende a perdersi, a smarrirsi, e non solo, non è un problema come dicono i giornali argentini, di coraggio, non è quello, perché Messi poi il piede lo lascia e spesso e volentieri la cosa gli costa in termini di botte. è che dà l'impressione di smarrirsi, è come se appunto quello spartito magnifico che il Barcellona è in grado di suonare gli mancasse in un modo decisivo. Questo mi sembra un limite, sinceramente, proiettabile anche sulla carriera futura. E poi invece un giorno o l'altro si scoprirà, dato che qui la risposta esatta non esiste mai, no? Per questo genere di riflessioni, si scoprirà che Messi, col suo talento smisurato, sarà riuscito ad andare davvero oltre il suo attuale CT, e cioè oltre Maradona. Siamo tornati in campo internazionale, quindi sentiamo un punto del presidente federale Abete. Trapattoni è sempre un allenatore, un competitor importante, abbiamo dimostrato forza di reazione, siamo in Sudafrica, tante altre squadre importanti ancora devono staccare il biglietto, la Francia va ai playoff, la Russia va ai playoff, Ucraina e Scozia si contendono un posto nei playoff, lo stesso discorso vale per Portogallo e Svezia, la Turchia è fuori, la Romania è fuori, e quindi insomma la qualificazione non è facile per nessuno. Noi siamo già in Sudafrica, abbiamo parecchi mesi per preparare bene questo appuntamento. Beh, era datato evidentemente questo intervento, ma era anche giusto, era la sintesi di un cammino di qualificazione che comunque alla fine, per non impossibile che fosse, è stato positivo. Faceva l'elenco il presidente Abete di tutte le squadre che si sono qualificate ai mondiali, tra le tante c'è la Serbia, ebbene la qualificazione della Serbia ha causato una curiosa polemica in quel paese. La stampa popolare di Belgrado, questa è un'agenzia di ieri che non ha avuto grande risata ma che trovo curiosa, ha chiesto che il presidente serbo Tadic e il ministro dello sport vengano puniti secondo la legge vigente con una multa tra 30 e 50 mila dinari, e cioè dai 300 ai 500 euro, per aver bevuto champagne allo stadio sabato sera festeggiando la qualificazione della Serbia ai mondiali grazie alla vittoria sulla Romania. In tal modo, affermano questi giornali, due politici hanno violato apertamente la norma che vieta in modo assoluto di bere alcolici all'interno degli stadi e in un raggio di un chilometro tutto intorno. Mi sembra un po' tirate per i capelli, anche perché insomma non si trattava evidentemente di festeggiamenti con possibilità di atti violenti, no? Però è anche vero che se la legge deve essere uguale per tutti, deve essere uguale anche per questo presidente e per il ministro dello sport. Una delle curiosità ereditate dallo scorso fine settimana internazionale, stasera e stanotte soprattutto in Sud America ne riparte un altro, è già non in partenza ma in ritorno Beckham, perlomeno a dar retta a questa dichiarazione di Galliani. L'unica eccezione è Beckham, poi non parlo più del Milan. Beckham ha molte probabilità di arrivare al Milan. Io do per fatte le cose firmate. Il contratto non è firmato, ma diciamo che ci sono buone probabilità che arrivi in prestito fino al 30 giugno. No, davvero, di Milan basta. Chissà che effetto farà ai milanisti questo ritorno. Perché ricordo che l'altro anno, lo scorso gennaio, l'arrivo di Beckham li divise abbastanza, nel senso che c'è chi ne era lieto perché arricchiva il tasso tecnico e c'è chi invece diceva che era un'altra pedina che serviva, un'altra pedina datata che serviva abbastanza poco. Credo che sia buona la seconda, a maggior ragione quest'anno, non solo perché è passato un anno in più, ma perché nel frattempo il Milan ha dovuto ridimensionare le sue ambizioni e la sensazione che Beckham sia un lustrino, sia pure ormai già collaudato, un lustrino non proprio di fondamentale importanza, indubbiamente c'è. C'è anche la notizia di questi giorni che a partire dal prossimo anno dovremo abituarci la domenica alla partita all'ora di pranzo, perché la Serie A prevederà con 99,9 direbbe Mourinho, probabilità su 100, una partita alle 12:30 dalla stagione 2010, perché? Ma per venderla in Oriente, dove a quell'ora siamo all'orario forte serale, e l'Oriente, i paesi orientali hanno tutte le migliori intenzioni di sborsare robuste somme pur di avere diritto a questo spettacolo. Grazie a Flavio Suardi in redazione, grazie a Carmelo Lauricella in regia, appuntamento a domani. Ricarica gialla. Sì, omeopatia del dottor Reckeweg, chiedila in farmacia. Vi ha presentato A Tempo di Sport.